Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane, di Rosita Celentano e Angelo Vaira. Buongiorno e buona domenica da Angelo Vaira, qui, qui presente. Se ti stavi lamentando un attimo prima di accendere il microfono, ti stavi, stavi borbottando con una pentola a pressione. Non mi stavo lamentando, no, ti stavo dicendo che abbiamo due notizie da dare. Diamo amore, prima che dopo quando torniamo a casa così, facciamo l'amore. E sì, poi quello... Ci è rimasto malissimo. Ah, perché al muro, la domenica pomeriggio non si può? Intervallo bellissima. Intervallo. Allora, no, parliamo di cose serie perché questa era seria comunque. Dipende da che punto di vista la guardi. Vabbè. Potrebbe far molto ridere. Allora, parliamo di cose serie. Siamo in linea con un legale preparatissimo, famosissimo, importantissimo, Emanuela Regazzi. La famosa Emanuela Regazzi. Pronto? Ciao, buongiorno. Nonché anche educatore cinofilo sei pure, no? Ma veramente? Esatto. Ma cioè, certamente. Sei anche educatore cinofilo? No, vabbè. E indovina dove mi sono formata? Dove ti sei formata? In Think Dog. Ah, Think Dog, quella famosissima scuola, quella... Ma la migliore di tutto il mondo. It, che è la migliore scuola di formazione educatore cinofilo del mondo. Assolutamente yes. Ma che culo che hai, Manu. Ma chi è stato il tuo docente? Vabbè, dai, tagliamo corto, perché se no allunghiamo troppo. Esatto, anche perché ci abbiamo pochi minuti. Allora, no. Parliamo, scusami, è vero, visto che siamo in periodo che dobbiamo pagare le tasse, è vero che si possono detrarre le spese veterinarie per animali domestici dalle tasse? Assolutamente sì, assolutamente sì. Le spese mediche, veterinarie, tutte quelle che sono le spese che dovessimo sostenere per i nostri amici a quattro zampe, farmaci e quello che ci viene prescritto dal veterinario, può essere oggetto di detrazione fiscale. Io non l'ho mai fatto. E come si fa? Non l'hai mai fatto. Ah, non l'hai mai allora, fatto. Con tutti i cani che ho sempre avuto, animali, papere, cincillà, ho salvato qualunque cosa. Sì, sì, si può fare, deve essere fatto ovviamente nella dichiarazione dei redditi, che per le persone fisiche è il modello unico o il modello 730. Ecco. Quello che è importante è rispettare comunque i limiti, perché il legislatore fiscale pone dei limiti a questa detrazione. La detrazione è nella misura del 19%. E c'è una franchigia, nel senso che le spese sotto l'importo di 129,11 euro non possono essere detratte. All'anno? All'anno, all'anno. Esatto. Cioè, cosa vuol dire? Quando uno ha accumulato di spese per il proprio cane oltre i 129,11 euro, cioè, quando supera questa soglia può farsela detrarre, altrimenti no. Esatto, okay. esatto. Che strana cifra. E poi c'è un tetto massimo, perché c'è una cifra massima. Il tetto massimo di spesa detraibile è 387,34 euro. Ma dobbiamo fare qualche passo in avanti, legislatore. Ma scusa una cosa, sì. Ma se io spendo 500 euro l'anno, a quel punto non le detraggo più? Esatto. Ma che cacchio vuol dire? Vabbè, ma ragazzi, ma allora ditelo, ci state prendendo per il culo voi dello Stato. Ma che cacchio vuol hanno dire? Hanno fatto un passettino in avanti, ne dovranno fare degli altri. Ma che senso ha? Oltre i 100 posso capire, 129. Vabbè, ma sotto i 300, ma che cazzo non lo vuol vabbè, dire? Mettiamo che adesso, per esempio, siamo a luglio, no? Oggi è 17 luglio, allora la gente ha già pagato le tasse, sì, diciamo che per quindi avrebbe risparmiato qualcosina per pagarsi il viaggio per andare in vacanza. No, vabbè, ho capito, però a me le cose fatte a metà mi fanno incazzare, era meglio che quindi il legislatore chiama Rosita Celentano. Appunto, ma chiamami 333 e mettiti d'accordo con lei che questa cosa della detrazione delle tasse va bene, ma fino a un certo punto. No, ma non va un cacchio bene, anzi, chiama, scrivi a Chiedimi se sono felice @radio24.it e vedi che ti rispondo, ti do il mio numero e se ne parla. Mentre un'altra caro cosa... signor legislatore, caro tu legislatore che hai un nome e un del cognome. Piffero, esatto. L'altra cosa invece, speriamo che mi gratifichi di più. Speriamo, perché se questa è l'introduzione, vediamo. Vediamo se Emanuele Regazzi ci dà buone notizie. Ma io avevo capito che gli animali non erano pignorabili, poi a un certo punto li hanno resi pignorabili. Ho capito male, è vero? Cioè, tu come si può pignorare male un animale di casa, un animale domestico? Aspetta, allora, situazione tipo, due... Cioè, o meglio, uno si... Non so, lascia perdere situazioni tipo, Manu. Allora... No, prego, prego. Cioè... Eh no, ma sei incartato, visto che sì, hai ragione, stavo facendo due esempi contemporaneamente. Avevo capito. Allora, no, posso darvi una bella notizia invece sul fronte civilistico, nel senso che a partire da febbraio 2016 è stata introdotta una nuova disposizione normativa che prevede l'impignorabilità dei nostri amici animali d'affezione. Da pochissimo. Nel senso che... Assolutamente sì, da febbraio 2016. Prima gli animali erano considerati come cose e di conseguenza un debitore che avesse dei debiti nei confronti di terze persone poteva purtroppo subire il pignoramento dei propri animali. Ma, non ci vuol dire, ma cosa vuol dire? Te li portavano via? Eh sì. Te li portavano via. Cioè, se il tuo animale ha un certo valore, tipo il tuo è il barboncino Euphoria, no? E uno dice, ma questo qua, pazzi. Io se me lo rivendo vale 1.000 euro. E quindi te lo pignoro, te lo porto via. Cosa c'era fra le cose invece non pignorabili prima del 2016? Tra i beni non pignorabili c'erano la fede nuziale, c'erano il letto matrimoniale, il tavolo, le sedie, ecco. Ma quelli. Io vendo tutto all'asta, letto matrimoniale, fede nuziale. Ma che cacchio, ma come puoi mettere su piatto della bilancia un animale domestico con la fede nuziale, con tutto l'amore lascia del mondo? Lascia stare che c'è chi lo fa. Appunto, esatto, dico, ma purtroppo. Ragazzi, se avete dei problemi, chiamate lo psicologo al numero. Beh, meno male, quindi dal 2016, grazie a Dio, non rischiamo nemmeno legalmente di avere un cagnolino, un gatto, un criceto, una cosa pignorata. Che ci ha portato via, assolutamente sì, e questo è un bel passo in avanti proprio perché il legislatore si è reso conto dell'importanza della tutela di quello che è il rapporto d'affetto che si instaura tra i proprietari e gli animali e soprattutto dell'importanza del fatto che gli animali sono esseri senzienti, come tali in grado di provare emozioni, sensazioni, stati d'animo e come tali devono essere tutelati. Nella Dai, sfera, abbiamo fatto comunque un passo avanti a livello culturale, abbiamo rinfrancato l'animo della cui presenta Rosita Celentano. Salutiamo l'avvocato Ragazzi e ci vediamo fra pochi minuti. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Perché allora, ridi, Vaira? No, perché per lasciare felice la Celentano, direi che lei ha una notizia da portare. Beh, ma com'è? Chiediamole se è felice. Io? Celentano. Allora, no, c'è una notizia. No, sono molto felice di poter parlare. Adesso ci abbiamo due ospiti con i quali mi fa sempre tanto piacere parlare. Uno dei due già l'abbiamo intervistato, lo conosciamo. L'altra no, ma fa parte di... Vabbè, vai al sodo, dai. Che pizza che sei. Ma perché non gli spegni il microfono a questo qui a destra? Non fatelo, gliel'hanno spento. Allora, parliamo di cose importanti. Allora, animalisti versus Unibol, Università di Bologna. Perché? 36 maiali uccisi per testare il farro, no alla vivisezione. Allora, che cosa succede? Animal Amnesty lancia la campagna alla vivisezione nel piatto con lo scopo di smascherare il business tentacolare della vivisezione che si sta infiltrando in un settore redditizio, l'alimentazione umana. Allora, siamo in linea adesso con Elena Fieni, che è appunto la responsabile di questa campagna. Elena, ci sei? Sì, ci sono, buongiorno a ecco, tutti. Ciao, pronto. Buongiorno. Quando abbiamo letto questa notizia sono rimasta abbastanza sconvolta, nel senso che, vabbè, ci spiegherai tu meglio. Comunque, no, si trascura effettivamente di considerare a volte che la vivisezione non riguarda soltanto il cosmetico, il farmaco, ma riguarda anche l'alimentazione umana. Quindi esatto. sono contento di questa campagna. Come vi è venuta in mente, Elena? Ma noi monitorizziamo continuamente, costantemente le attività di alcune facoltà scientifiche, in questo caso dell'Università di Bologna, quindi esatto. controllando i siti, i comunicati stampa, abbiamo visto un titolo, diciamo che abbiamo avuto una buona intuizione, un titolo riguardo a un progetto europeo, ci siamo andati a fondo, abbiamo trovato i piani delle attività e poi... Quale sarebbe il progetto europeo? Il progetto europeo si chiama Bake for Fun. Che sarebbe? È un progetto finanziato, cofinanziato dalla comunità europea che studia le proprietà del farro. Sì. Ma l'idea principale è quella di contrastare, diciamo, la tendenza che c'è nei paesi occidentali ad avere carenze di farro, quindi anemie. Okay. E lo scopo era quello di produrre un prodotto, in questo caso un cereale antico come il farro integrale, arricchito con ferro tramite un sistema molto sofisticato di microincapsulazione. Quindi stiamo andando ancora a manipolare? Sì, è un prodotto naturale che viene utilizzato da millenni, manipolato in laboratorio. Cioè, ma comunque, capisci? Cioè, quindi scusami, perché io sono sconvolta, perché io dico, ma scusa, ma se sappiamo che il farro a noi fa bene, ma per quale motivo bisogna testarlo sui maiali? I maiali muoiono per capire se il farro a noi fa bene. Io quindi ho il sospetto che le case produttrici poi di questa cosa possano scrivere in questo modo sull'etichetta arricchito con ferro. È questo? Esatto, lo scopo è quello di poter scrivere. Ma perché non si arricchiscono loro di ferro? Una bella martellata in testa di ferro, sono arricchiti così, no? No, in realtà sarebbe sufficiente seguire una dieta ben equilibrata. Appunto! Invece di mangiare 80 grammi di farro naturale, integrale, ne mangi 100 e la quantità di ferro in più la riesci comunque ad assimilare. Ma certo, ma non solo con quello, i carciofi, ci sono miliardi di alimenti. Possiamo cogliere già una parentesi indiretta su questo, però avete carenza di ferro, non è necessario mangiare carne, visto che abbiamo parlato nella puntata scorsa del fatto che stiamo causando una sesta estinzione di massa a causa del consumo di carne. Allora, potete mangiare semplicemente del farro, ok? Anche se non è se non c'è scritto arricchito con ferro. Quindi che cosa succede? Che allora loro per giustificare questo hanno fatto mangiare a questi poveri maiali questo farro manipolato. Sì, loro hanno somministrato per una trentina di giorni del farro arricchito, 6 farine con formule diverse, e alla fine dei 30 giorni gli animali sono stati uccisi per prelevare dei campioni di tessuto da analizzare, per determinare la capacità antiossidante, per determinare la capacità antinfiammatoria, per determinare la biodisponibilità, quindi l'assimilazione del farro. No, del vedi, e l'Università di Bologna ne è complice, era d'accordo, quindi ha permesso tutto ciò. Ha avuto il finanziamento. L'Università di Bologna è il primo protagonista di questo progetto, non solo perché è il coordinatore generale del progetto europeo, ma perché è il primo responsabile degli esperimenti. L'Università di Bologna è quella che ha stilato il protocollo sperimentale. Ecco perché. E quindi che ha deciso di utilizzare gli animali e di fare esperimenti in vivo sui maiali, quando non è assolutamente obbligatorio, perché non c'è nessuna legge a livello europeo, quindi di direttiva o a livello nazionale, che imponga l'utilizzo degli animali sui test per l'efficienza. Ma infatti, sai quando parlavamo tempo fa con Leonardo Caffo? Cioè la domanda è necessario? Allora, sebbene questa domanda io posso comprendere che se la possa porre su un farmaco, anche se non condivido poi le scelte, no, della vivisezione anche per i farmaci, ma il punto, poi ne parleremo con Massimo Tettamanti anche di questo, ma il punto è qui non è per niente necessario. Cioè io devo sacrificare la vita di questi maiali che fanno una vitaccia così per poi poter scrivere sull'etichetta, essere preso in giro, tra l'altro con l'aggiunta di ferro. No, ma poi scusami, fammi capire, ma all'Università di Bologna non succede nulla di questa roba che non è necessaria? Cioè non c'è una legge che tuteli la vita di altri animali che vengono usati anche quando non è necessario? E questa è una bella domanda, Rosita. Chiediamoci perché hanno utilizzato i maiali quando non era indispensabile. Chiediamoci chi ha avuto veramente l'interesse a filare ed approvare un protocollo sperimentale del genere. Chi gli ha dato i permessi? Non è l'azienda produttrice di farro. Appunto. Che oltretutto ha dichiarato che non metterà sul mercato alcun prodotto testato su animali. Ma nell'ultimo comunicato stampa. Tu devi sapere anche che noi stamattina abbiamo cercato qualcuno dell'Università di Bologna e hanno detto: mannaggia, se ci avvisavate prima ci rendavamo disponibili. Secondo me adesso intanto sentite questa trasmissione, perché il sospetto qual è? Siccome io leggo, Elena, poi correggimi se sbaglio, mi sembra di leggere questa cifra di 1.311.000 euro 748 virgola 80, no, di euro. Questo quindi è il costo totale del progetto, costo totale del progetto. Quindi il sospetto che uno viene è che quando c'è un team di ricerca, pur di sostentare se stesso, se le va ad inventare un po'. No, magari diciamo che gli 80 euro se li avranno usati per la ricerca e 1.311.748 se li sono suddivisi. Utilizzare per la ricerca è alla fine poi è quello, come stipendiare chi fa ricerca. È una provocazione ironica. Senti, cosa si può fare in questo caso? Cosa possiamo fare per aiutare, per fare in modo che non ne succedano, che non muoiono, che non vengano uccisi altri maiali o altri animali per sperimentazioni che non sono necessarie? Allora, fondamentale che il consumatore sappia. Ok. E questo è uno degli scopi ovviamente della nostra campagna, che è una campagna informativa, ma non solo. Noi abbiamo in essere anche una petizione rivolta al Ministero della Sanità, nella quale chiediamo che nelle linee guida indichi chiaramente che i test sull'efficienza non prevedano i test in vivo sugli animali, che siano assolutamente vietati. Che siano vietati. Che siano vietati, assolutamente. E per, tu dicevi che è importante che gli ascoltatori, in questo caso gli ascoltatori, insomma, che la gente, i consumatori, sappiano e siano consapevoli. Ma di che cosa? Cioè, tipo, se vado al supermercato e trovo questa etichetta, non compro? Cioè, cosa deve sapere? È difficilissimo capire quale prodotto è etico e quale prodotto non è etico, perché non c'è trasparenza. Quindi mettiamoci un dubbio tutte le volte che vediamo alimenti addizionati. Ah, certo. Anche se non necessariamente tutti gli alimenti addizionati sono testati su animali, perché vengono fatti tantissimi esperimenti in questo settore, ma molti utilizzano anche metodi sostitutivi. Sì, senti, guarda, io rimango a quello che suggerisce il professor Berrino, Franco Berrino, che dice: per andare a fare la spesa consapevole prova a immaginare che cosa la tua nonna o la tua bisnonna, a seconda dell'età che c'hai, faceva da mangiare. Quindi sono campati 90 anni stando bene, non ammalandosi mai, voglio dire, non c'è bisogno del ricercatore che mi mette il ferro dentro al farro, che sembra pure un gioco di parole. Senti, Elena, intanto grazie mille, grazie di questa, grazie di questa tua chiacchierata. Per qualunque cosa noi siamo a disposizione per rendere sempre più consapevole attraverso i microfoni della radio le persone, in modo che sanno che possono fare delle scelte, insomma. Bisogna stare molto attenti. Grazie Elena grazie Fiani, a voi, e buon lavoro. Grazie mille. Animal Amnesty, che ha lanciato questa campagna e ci rende maggiormente consapevoli, appunto. Dunque, al telefono con noi abbiamo anche Massimo Tettamanti. Pronto? Pronto, buongiorno. Ciao, ecco, Massimo. Allora, dovete sapere che Massimo Tettamanti è uno scienziato esperto in metodi alternativi, cioè così quando vi vengono a dire ma che alternativa c'è, allora avete ascoltato Radio 24 con Massimo Tettamanti, che è responsabile di iCare Network, che si occupa proprio di questo, no? Questa organizzazione, giusto? Giusto, esattamente. Intanto ciao a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. iCare Network riunisce varie realtà del volontariato, in particolare una sezione apposta è dedicata al tema della vivisezione o sperimentazione animale, nello specifico sviluppando e proponendo delle tecnologie moderne, innovative, che possano essere utili nella ricerca e nella tutela della salute umana senza fare uso di animali. Quindi, scusa Massimo, io posso azzardare da profana e ignorante del settore che non c'è più quasi per niente, secondo me, motivazione che regge sulla vivisezione sugli animali, né per quanto riguarda l'alimentazione, né per quanto riguarda la cosmesi e nemmeno per quanto riguarda noi farmaci? Guarda, correttamente, per quanto riguarda la cosmesi ormai questo è stato appurato, okay. Sono anche state cambiate le normative a livello europeo e si sta modificando a livello internazionale, okay. Ma in realtà è solo il primo caso, perché quello che vale per la cosmesi vale anche in altri ambiti. La differenza tra la cosmesi, cioè un cosmetico che ha un effetto locale sulla cute, sulla pelle, eccetera, e un farmaco o un integratore alimentare, un sistema alimentare come quello giustamente denunciato da Animal Amnesty, sì. Deriva dal fatto che per queste tipologie di sostanze serve una risposta che non è specifica sulla pelle o su un organo, ma deve essere dell'intero organismo umano. Allora aspetta, siccome abbiamo un attimo un break da fare, rimaniamo con te subito dopo, così ci spieghi bene, entriamo più in profondità su tutti questi argomenti. Ciao, dopo. Tutti i pomeriggi dalle 16.30 alle 17 su Radio 24, Oscar Giannino vi aspetta con la versione di Oscar. La versione di Oscar in realtà non è il punto di vista di chi vi parla, è soprattutto la serie delle storie strane, singolari, che contraddistinguono la nostra vita di cittadini di fronte a uno Stato che molto spesso ci tratta da sudditi, la storia di come vanno le cose nell'economia e nella finanza italiana, la storia delle tante parti d'Italia in cui questa crisi per anni si faticherà in realtà a farla tornare a dei livelli di reddito, prodotto, investimenti necessari davvero a restituirci a quello che eravamo nel 2008. Tutti i pomeriggi, da lunedì al venerdì alle 16.30 alle 17 su Radio 24, la versione di Oscar. Non mancate! Che cos'è l'Olimpo? Perché è importante fare sport? Come ci si prepara a una Olimpiade? Le domande dei più piccoli, le risposte dei più grandi. Sono Federico Taddia e vi aspetto a Terra in vista le Olimpiadi spiegate a mio figlio, insieme al filosofo della scienza Telmo Pievani. Il mito, la vittoria, il limite, la corsa, ogni puntata una parola per raccontare lo spirito olimpico. E non solo, tante storie e curiosità e poi le nostre rubriche come Non battere la fiaccola, le animaliedi e la scienza nello sport. Terra in vista, ogni domenica alle 9. Perché l'importante non è vincere, è ascoltare. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. E siamo sempre qui a Radio 24 con Chiedimi se sono felice, @radio24.it, e stiamo parlando con Massimo Tettamanti, ovvero esperto dell'alternativa alla vivisezione. Attenzione, perché le nuove tecnologie sono addirittura più utili nell'individuare il farmaco o addirittura più utili per testare il cibo, che è esattamente la cosa da cui siamo partiti. Quindi Massimo, io una cosa che ti chiedo è, ma te, di questo esperimento fatto all'Università di Bologna, dove 36 maiali sono stati uccisi, esperimento costato 1.300.000 euro, te che ne pensi? Allora, intanto è stata brava l'associazione Animal Amnesty a portare l'attenzione su questa tematica, che e cioè l'uso di animali anche per testare cibi o integratori. E sono stati bravissimi. Che su non quello. È una novità, cioè lo fanno da sempre, no, giusto? Sì, si fa proprio perché per i farmaci e per gli alimenti la risposta che serve, a differenza di un cosmetico, serve una risposta dell'organismo completo. In tempi passati, che per me dovrebbero essere legati alla preistoria, si utilizzava l'animale perché forniva una risposta in vivo, una singola cultura cellulare non è in grado di dare risposte. Ma con la tecnologia moderna, una cultura multiorgano, tutti prendendo materiali umani, quindi pezzi di intestino, stomaco, per utilizzare quegli organi che sono ovviamente connessi all'alimentazione, mantenendoli, vengono dai resti delle operazioni, si possono mantenere vivi in coltura, si possono mantenere vivi in tre dimensioni e non in due dimensioni, quindi simulando un organismo in vivo, si tengono in collegamento fra di loro simulando quello che avviene, la comunicazione tra gli organi che avviene all'interno dell'organismo, e si crea quindi una struttura, un sistema che rappresenta il metabolismo umano, cioè quello che succede dentro il nostro corpo, con materiale umano che quindi dà risposte specifiche per la specie uomo. Ovviamente un animale, se gli dai delle sostanze alimentari, chimiche, qualsiasi, reagirà con le sue risposte genetiche, metaboliche, che sono specifiche specie per specie. Il maiale reagirà con la sua genetica, l'uomo ovviamente con una genetica diversa reagirà in modo diverso. Per quello che è fondamentale procedere con le culture multiorgano. Noi le insegniamo in alcuni corsi anche a livello universitario, le proponiamo, e i laboratori che desiderano effettuare una transizione, passare dal modello animale a questi metodi, siamo in grado di coprire anche le spese per tutta la trasformazione e il Vi dico uno studio di questo tipo, su materiale umano, tanto siccome avete citato dei numeri, sì, sì. Uno studio di questo tipo può costare al massimo, e sto esagerando, 20.000 euro l'anno. Ma non ci credo. Quindi avete visto le cifre, per quello che noi possiamo permetterci di fornire questi metodi gratuitamente all'università. Che in realtà, oltre a essere tecnologicamente moderni, di rilevanza umana, costano meno. Ma che buffoni. Allora, vabbè, facciamo parte di un... Cioè, ci stanno buffoni e clown dappertutto, in Italia, nel mondo. Cioè, io spero che oramai le bugie, le cazzate, le possano dire sempre meno, e che si riesca veramente a rendere la gente consapevole. Perché l'altra volta che avevamo parlato con te della vivisezione legata però ai farmaci, già avevo capito che comunque, per passare da una specie animale a un'altra, c'è sempre un salto nel buio, perché quello che per esempio ha un maiale non fa nulla, a me essere umano può far male, e viceversa, giusto? Corretto, se vogliamo esagerare, io se uno dovesse credere alle prove su animali, in questo momento io potrei fondare una ditta che vende la diossina come alimento, perché il criceto si può mangiare la diossina e sta benissimo. Vedi. Ecco. Quindi è un esempio fra mille. Il fungo velenoso, noi lo definiamo velenoso perché è velenoso per noi, ma un coniglio si può pappare il fungo velenoso e se lo può mangiare e stare benissimo. Ecco. Quindi capite bene come il passare da una specie ad un'altra. Quindi rimane il fatto che dalla chiacchiera tua dell'altra volta non vogliono e continuano a tergiversare su non chiudere definitivamente la vivisezione a scopo sia farmaceutico che alimentare, perché così ci possono mangiare soldi, girano tanti soldi, possono prenderci in giro, nel senso che ci mettono sul mercato delle medicine dicendo vabbè, ma fa male sul maiale o sul topo o sulla scimmia, ma a noi forse ci fa bene, perché tutto sommato vogliono comunque mantenere cioè voglio dire, anche se ci fa male chi se ne frega, perché così siamo obbligati a curarci con altre medicine, giusto? Corretto, io identifico due problemi principali. Il primo è dovuto all'ignoranza, definita proprio come chi ignora un qualcosa, esatto. Ignora che si possa fare ma in modo parte diverso. Della gente comune, da parte della gente comune, anche dai ricercatori, ma assolutamente. I metodi che noi insegniamo all'università, quando li portiamo in corsi, sono metodi, corsi specifici per ricercatori, per cui gente che ha studiato 4-5 anni, ha fatto borse di studio, ha dottorati di ricerca, per cui gente che ha una competenza su quello che viene insegnato a livello universitario. Questi metodi non li conosco. Non li conosco, per cui da lì riusciamo a fare dei cambiamenti, perché qualcuno glieli presenti, glielo spieghi e riesce a farlo cambiare. Questo è facile, è solo un fatto di ignoranza, per cui procedendo nella nostra attività questa ignoranza l'andremo a colmare. Più soldi finanziamenti riceviamo, più velocemente la colmeremo. Il problema è il secondo punto, che è la comodità economica. Ecco. In questo mondo hanno avuto accesso a 1 milione, e adesso non mi ricordo esattamente la cifra, però una cifra enorme per studiare un qualcosa di cui già tutto si sa, eventualmente integrandola con il ferro di cui già tutto si sa, perché tutte le nuove linee guida americane sono appena uscite. Valgono dal 2015 al 2020 e hanno fatto benissimo vedere in che modo ci si può alimentare. Tra l'altro mi permetto di aggiungere che concludono dicendo, se volete poi vi mando via mail tutti i documenti di quanto sto dicendo, che i professionisti della salute, i dietologi, i medici, gli oncologi, dovrebbero invitare a dieta a base vegetali per la buona e corretta alimentazione. Ecco, quindi tutto si sa. Tutto si sa. Ben noto sull'alimentazione. Perché quindi vedi, il sospetto che io ho è che quando una tecnologia costa poco, perché è così efficiente, così buona, eccetera, possa venire scartata, perché così tu ti puoi far pagare, cioè hai accesso a minori fondi. Questo è secondo me. Sì, perché c'hai meno soldi da spartire. No, capito, su un bilancio tu dici, vabbè, tecnologia mi è costata 20.000 euro, quando devi mettere in piedi invece un impianto più complesso, fatto da animali, da dove devono stare, da quello che devono mangiare, da chi si deve occupare di loro, via dicendo, si gonfiano le spese. Cioè, questo è... Non solo, c'è qualcosa di molto più sofisticato, e ve lo spiego. Se io ho un sistema che fa uso di materiale umano e mi dà una risposta per l'uomo, immaginate di avere un nuovo integratore alimentare, è una sostanza non conosciuta. Se la si usa su questo sistema e si vede che diventa cancerogena, tanto che crea un effetto cancerogeno, automaticamente cosa succede? Che teoricamente uno dovrebbe vietarne la diffusione e l'utilizzo. Sì. Se invece una sostanza è testata su animali e su animali dà un effetto dove gli animali possono sviluppare tumori o altre patologie, comunque si prosegue sull'uomo, perché non è detto che sull'uomo stesso. Certo. Quindi diciamo che lascia molto più margine di manovra. Certo, è quello che ci dicevi l'altra volta, è quello che ho cercato ovviamente in modo un po' macaronico di riassumere prima io, in modo che quest'incertezza dia la possibilità di buttare comunque del veleno sul mercato con la scusa che tanto sono... cioè questa è la scusa, cioè in realtà le cavie non sono solamente i criceti, le scimmie, ma siamo pure noi, siamo la cavia finale pure noi. Diciamo che come sempre la consapevolezza delle cose ci permette di far fronte, no, a questo problema, perché vedo che è talmente tanto complesso che purtroppo la risposta del chi se ne frega, ma tanto io faccio quello che piace a me, qui non funziona più, abbiamo una responsabilità ed è meglio essere consapevoli anche perché cose. Poi tutto torna, anche perché Massimo, quando poi a me mi chiamano in trasmissioni tipo Matrix o Fuori Onda e io dico ma perché non chiamate anche un esperto serio, chiamano tutti noi che siamo un po' dei poveri disgraziati che sposiamo delle cause ma non abbiamo l'esperienza proprio sul campo come per esempio ce l'hai tu, non vogliono che si sappia realmente, allora io dico a queste trasmissioni ma voi volete far cagnare o volete fare informazione, perché io provo a dire le cose e mi mettono come contropartita quella ragazza poverina che non mi ricordo come si chiama, ma che è menzionata sempre da tutte le trasmissioni, che dice io e grazie alla sperimentazione animale che sono ancora viva perché sennò non respirerei. Sì. E poverina, ma lei stessa non sa come funzionano veramente le cose, capito? Chiaro, sì sì. No, non mi chiamano mai. No, beh, ma adesso la prossima volta ti chiamo. Guarda, ma... No, no, ma la prossima volta che invitano me dico va bene, io vengo solo assieme a Massimo Tettamanti, va bene? Sì, vedrai che non andrai più in quelle trasmissioni. C'è un modo per te per non andare più perché ti annoi, perché ti rompi. Dico eccetera. Che vengo assieme a te. L'ottimo modo, sì, sì, è dire che arriviamo noi insieme, vedrai che non ti invitano più. Magari ti faccio un'intervista per il mio blog, così facciamo tutte le chiacchiere che ci pare, diciamo la verità. Una cosa ti volevo chiedere, come si fa a capire, come fa un consumatore a capire che cosa deve andare a comprare al supermercato? Allora, io dico, questa è un'opinione, io di solito mi baso e faccio conferenze, convegni o corsi su un discorso scientifico, quindi oggettivo e dimostrabile. Qui esprimo semplicemente la mia opinione di una persona che comunque è in questo ambiente da tempo. Io consiglio di fare... con internet, con tutto quello che c'è, prima di andare al supermercato, non al supermercato, di informarsi su quelle ditte che producono cibo vegano per una scelta di tipo etico, prima ancora che salutistico. Perché questo? Perché queste ditte controllano tutto il prodotto fin dalla loro origine e provenienza. Certo. Mentre ci sono altre ditte che magari fanno la linea vegana, e questo lo ritengo comunque un miglioramento anche a livello culturale e sociale, perché ovviamente adesso ci sono anche al supermercato tanti prodotti vegani, è molto più facile rispetto... Io ho scelto essere vegano 24 anni fa, era molto più complicato ovviamente. Certo. Quindi questo è sicuramente positivo e interessante da un punto di vista sociale, ma siccome ci sono tutta una serie di situazioni come quella denunciata da Animal Amnesty e altre, sì... scegliere quelle ditte prima di entrare al supermercato o eventualmente acquistando online che fanno una scelta alimentare di tipo etico, non multinazionali o aziende che hanno fatto il peggio possibile e poi creano la linea salute o la linea vegana, perché non potrai mai controllarla, è impossibile. Quindi è meglio scegliere informati e arrivare al supermercato avendo ben chiaro quali sono le aziende che hanno un approccio etico. Ovvio che poi ci può essere il truffatore in ogni ambito, certo, ma però almeno qui riduciamo il rischio, diciamo, al minimissimo. È ridotto, perché molto spesso chi ha creato queste società, io non ne faccio parte, non ho partecipazione societaria in nessuna, quindi lo dici proprio, non ho nessun interesse assolutamente. Esatto. Ma conosco molti di chi hanno creato ditte che vendono sia online sia che hanno finalmente trovato una distribuzione, che hanno un approccio, una partenza di tipo etico, quindi non giocano solo sul discorso economico, ma vogliono davvero creare una diversa economia. Beh, che sia a vantaggio degli animali, dell'ambiente e anche della salute umana. Grazie Massimo, sei stato come solito prezioso, ti richiameremo sicuramente. C'è un sito dove uno, se volesse vedere e leggere le cose tue, c'hai un blog, un sito? Dove uno può... No, assolutamente, no, scherzo. Vabbè, uno mette Tettamanti su Google e viene fuori qualunque cosa, quel mondo come ho fatto. Allora io suggerisco di mettere iCare, scritto Icare, perché in inglese, Icare, sì. Network, e trova sia la pagina Facebook sia il sito. Da lì non troverà solo il discorso della ricerca senza uso di animali, ma troverà anche scelte sull'alimentazione vegana e associazioni che si occupano di tutela della salute umana, dell'ambiente e degli animali, un po' di Benissimo. Tutto. Quindi Fantastico. Poi da lì uno si forma come vuole. Grazie Massimo, grazie Tettamanti. Mille, a presto, buona domenica. Grazie a voi, come ciao. Sempre, ciao. Ciao, ciao. E noi grazie, ci rivediamo tra poco. Roma-Napoli, in auto con un'amica, io, lei e il sistema digital radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto. Grazie alla digital radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB+. Anche Radio 24 è in digital radio. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Volevi introdurre tu l'argomento? No, perché qui parliamo. A volte, secondo me, i radioascoltatori si dicono: ma chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane, che c'entra la vivisezione, no? Allora, volevo spiegarlo, perché si tratta di felicità anche quella, no? Certo. L'esercizio di chiederci come quanto è felice il nostro cane, il nostro vicino di casa, il nostro partner e qualsiasi altro animale appartenente a qualsiasi altra specie rende l'essere umano un essere umano migliore. Ne abbiamo parlato nelle nostre puntate precedenti. È verissimo. Parlando di felicità, giusto, appunto, ci ha colpito questo articolo di LifeGate.it che dice: il tuo cane sa quando sei arrabbiato con lui e non si fida affatto di te in quei momenti. E difatti è vero, sai che quando, cioè, loro si accorgono, io a volte mi accorgo, cioè io vedo che loro sanno quando io sono tesa o nervosa. Sì. Questo da cosa loro, cioè, la ricerca scientifica questo ce lo conferma. Il cane riesce a comprendere il nostro umore dal nostro odore, dal modo che abbiamo di gesticolare, dall'espressione del nostro volto e dal nostro tono di voce. Cioè, se io sono di malumore, però non mi muovo, non dico niente e mi girano solo, cioè sono tesa, loro comunque se ne accorgono. Il tuo cane se ne accorge, assolutamente sì. A parte che cambia comunque il fatto che tu stai ferma è un dato per un cane. Il fatto che tu tenga le spalle giù o su, la colonna vertebrale in un modo o in un altro, l'espressione del volto in un modo o in un altro, dà informazioni al cane, ma non è che le intuisce lontanamente, cioè quello proprio ti fa una radiografia. Ma è vero che però loro soffrono dei nostri cambiamenti d'umore repentini? Assolutamente sì, ma infatti leggevo questa ricerca, è stata fatta alla Brigham Young University, è stata pubblicata su Animal Cognition, che tra l'altro è una rivista scientifica di assoluto rilievo. Uh-huh. I cani sono sensibili al nostro umore e non soltanto, hanno misurato le capacità cognitive del cane in presenza di un proprietario arrabbiato, cioè che gli chiede di fare le cose intorno arrabbiato, tipo prendimi le ciabatte oppure fai quest'altra cosa. E poi l'hanno misurato invece con un proprietario, con lo stesso proprietario, però che dà indicazioni che dà in modo gentile. Ebbene, le capacità performative e cognitive dei cani erano enormemente migliori quando il proprietario era felice piuttosto che arrabbiato. Questo vale ovviamente per tutti, anche fra un genitore e figli, fra un uomo e una donna, fra compagni. Assolutamente. Ma quello che ti volevo dire io, allora scusami, tutta quella vecchia scuola e quel metodo che ancora purtroppo alcuni... Quello del capobranco dove ti devi imporre, non serve, a una mazza. Cioè, quando sentite parlare di capobranco, per favore cambiate canale, cambiate radio, cambiate vestiti, cambiate tutto. Cioè, ormai è una roba veramente vecchissima, non serve più, non serve imporsi. Con gli animali è stato provato che abbiamo un rapporto più genitoriale. E poi soprattutto queste cose valgono veramente anche fra esseri umani, fra di noi. Quando noi usiamo i metodi gentili fra di noi, siamo più accoglienti, siamo più pazienti, otteniamo molto di più che con la rabbia. Mi ricordo una volta quando andavo nei campi di addestramento: ma lo capisce l'italiano? Lo vuoi un calcio nel culo? Questo è quello che dicevano i cani. E li menavano, che te ne hai idea. Cambiavano come ogni 2x3. Allora, questo mina la fiducia dei cani. Grazie ragazzi per tutto quello che avete fatto fino ad oggi, come te Angelo ricercatore, come Mark Beckhoff, come tutti voi che ci avete fatto scoprire, a me compresa, che dalla parte di là non ci abbiamo un peluche o un pupazzo, ma ci abbiamo veramente un essere senziente che prova le stesse nostre emozioni, dolore, rabbia, paura, stress, tutto. Diciamo quanto. Che essere felici paga, dobbiamo imparare ad essere felici anche noi stessi, no? Per poter rendere felici i nostri dobbiamo cani. Essere felici e rendere felici. Per questo, visto che è quasi ora di pranzo, cosa si fa? Si ascolta la ricetta del giorno di piatti e ciotole mare di noia. Piatti e ciotole. Abbaia, abbaia, euforia, abbaia. E dunque, cosa ci hai preparato per questa domenica, Mara? Cara Mara, siamo qui con Euforia che ti ascolta. Allora, per questa domenica ho pensato per voi al tabulè di ceci. Tabulè. È una ricetta veramente profumata che ci fa pensare un po' a vacanze in posti esotici. Buono, io adoro i ceci. Io adoro il tabulè in generale. Cos'è il tabulè? Il tabulè è un piatto tipico libanese. La cultura comunque libanese è piena di piatti vegetariani per natura, e quindi non dobbiamo fare molti cambiamenti per chi ha smesso di mangiare carne e magari non mangia neanche i formaggi. Trova in queste ricette tantissimi spunti. Sì, infatti. Allora, vi occorrono 180 grammi di ceci secchi, un cucchiaino di bicarbonato di sodio, 150 grammi di piselli freschi, una manciata di foglie di menta, una manciata di foglie di aneto, una manciata di foglie di prezzemolo, la scorza di un limone grattugiata, 50 grammi di yogurt di soia al naturale, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, un cucchiaino di succo di limone, un cucchiaino di sciroppo d'acero, il nostro pizzico di sale e due cucchiaini di menta, aneto e prezzemolo sminuzzati. Cosa dovete fare? Mettere a bagno i ceci secchi per una notte, cambiare l'acqua tre volte, mi raccomando sempre cambiare l'acqua tre volte ai legumi secchi, scolarli. Ah, tre volte? Aspetta. Ci dobbiamo alzare di notte a cambiare l'acqua ai... Allora, no, non ti devi svegliare di notte, perché tu li metti a bagno alle 8 di sera. Sì. Finché vai a dormire cambi l'acqua due volte. La mattina dopo cambi l'acqua la terza volta e cuocere sempre i legumi in acqua pulita. Questo è molto importante per digerire i legumi. Vedi, cioè praticamente trucchi. Vengono fuori le impurità con l'acqua. Vengono fuori non solo le impurità, ma delle sostanze che sono chiamate antinutrizionali, che sono contenuti nei semi, soprattutto nei legumi, che si chiamano fitati. Questi fitati rendono difficile la digestione del legume quando è crudo oppure quando è cotto poco. Motivo per cui molte persone non digeriscono i legumi, ma questo è un segreto che vi ho svelato. Ormai non è più un segreto. Brava, ne sa una più del demonio. Quindi mettiamo a bagno questi ceci con il bicarbonato di sodio in una casseruola, portiamo a ebollizione e dovremo cuocere per sicuramente almeno un'ora. Nel frattempo cuociamo i piselli freschi, li facciamo raffreddare in acqua fredda in modo tale che mantengano il colore brillante, frulliamo le erbe, la scorza di limone, lo yogurt, l'olio, il succo del limone, lo sciroppo d'acero e il pizzico di sale. A questo punto, quando i ceci saranno cotti, li mescoliamo ai piselli e aggiungiamo il condimento. Mescoliamo e cospargiamo con tutte le nostre erbe profumatissime sminuzzate. Per noi il piatto è pronto, per la nostra ciotola invece possiamo aggiungere un soffiato di riso oppure altri tipi di fiocchi di cereali per avere un piatto completo. Benissimo. C'è Rosita che ride perché nel frattempo che tu davi la ricetta ci facevamo gli scherzi e voleva farmi cogliere impreparato, capito? Cioè, e invece il secchione qua alla mia destra, vedi, ma prima o poi lo beccherò impreparato. Allora, se volete ritrovare queste ricette sui podcast di radio24.it, scriveteci a chiedimi se sono felice @radio24.it o andate sul blog di Mara Di Noia, che è www.vegachef.it. grazie Mara anche per questa grazie domenica. Grazie Mara De Noia. Ci vediamo presto. Grazie anche a te. Cioè, insomma, che frase è? Se volete trovare i podcast, arrivederci, ci vediamo domenica io prossima, non lo so, andiamo guarda, a mangiare. Qua proprio con la Celentano.